lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Bentornati come ogni domenica a quest'ora con la 3000 siepi. Oggi di nuovo in versione 1005 perché Gine è in una fase di ristrutturazione esistenziale e per cui mi abbandona sempre più spesso, però me la cavo uguale, insomma, in qualche modo tiro avanti. E oggi volevo parlarvi, visto il bel tempo che c'è qua in città, con questa bella pioggerellina quasi da fine inverno, inizio primavera, vento scirocco e cose così, con l'arrivo della primavera si sa riescono come le marmotte i corridori, e quindi vorrei fare una puntata tutta dedicata alla, alla corsa, in particolare alla corsa nell'accezione della corsa di lungo percorso, quindi maratona, fondo, mezzo fondo e queste cosine qua. Per mantenere il nostro stile un po' legato alle storie un po' buffe e particolari legate allo, allo sport, non volevo tediarvi con racconti troppo tecnici né trionfalistici di super atleti, ma volevo iniziare subito con uno che atleta non è, però buffamente correva la maratona, o almeno così si narra, ci sono anche delle foto in realtà che lo testimoniano, pare arrivasse sempre, partisse, arrivasse pure fino alla fine. E il personaggio di cui volevo raccontarvi è Joe Strummer, il cantante dei Clash, che partecipò nel 1982 a una maratona a Parigi in una fase abbastanza buffa della propria esistenza, perché sostanzialmente dopo che Clash avevano fatto Sandinista, è un album non ben accolto dalla critica, in realtà secondo me è un album molto figo dove si mischiano un sacco di generi musicali, però la critica non era contenta. Prima dell'uscita di Combat Rock, sostanzialmente proprio manager, cioè il loro manager, gli aveva suggerito: senti, ma fai una sparizione modello Beatles, così esci sui giornali e facciamo una mega pubblicità. Strummer l'ha preso in parola e senza dire niente a nessuno, sostanzialmente è scappato con la sua compagna a Parigi da un amico, e non ha detto a nessuno ed è stava lì a Parigi. A Parigi, se non che... E si correva la maratona di Parigi proprio in quei mesi. Allora lui ha pensato bene di andare a fare la maratona. Poi ha rilasciato dopo un'intervista su questa maratona dove spiegava che sostanzialmente lui non si era allenato per almeno 4 settimane prima della maratona, e anzi la sera prima si era bevuto 10 pinte di birre. Nonostante questo aveva corso la maratona, aveva fatto un buon tempo, dall'inizio era arrivato partito, è arrivato, insomma. Questo è ciò che lui racconta, noi non sappiamo se corrisponda al vero o all'esigenza di creare il personaggio, comunque è una storia buffa di un maratoneta improbabile, ecco. E quindi nulla, ora vi volevo fare sentire un pezzetto che non è tratto da Combat Rock, che sarà l'album che poi uscirà, che alla critica questa volta piacerà abbastanza. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che Joe Strummer non era nuovo comunque alle maratone, perché l'anno prima aveva corso quella di Londra, ci sono le foto con lui con la magliettina col teschio con scritto The Clash, e nell'83 parteciperà di nuovo sempre alla maratona di Londra. Il pezzo comunque ve lo farò ascoltare è in realtà preso da un altro album, da Give Me Enough Rope, e si intitola Stay Free. Thank you. smoky mentor. I practice daily in my room. You were down the crown planet. Your next move, go on a dicking spree. Corsa, questa volta accorciamo le distanze, dalla maratona passiamo al mezzo fondo a 5.000 metri e in particolare volevo parlarvi di un personaggio statunitense, si chiama Steve Prefontaine e è un personaggio piuttosto noto tra i runners, tra i corridori, più che altro non tanto per i suoi risultati eccezionali, ma perché era un personaggio molto, molto carismatico, era uno di quelli un po' filosofi che rilasciavano le dichiarazioni dopo le corse, in particolare aveva questo stile di corsa molto aggressivo, è rimasto famoso perché nel 1972 alle Olimpiadi di Monaco affrontò la finale in una maniera, con una tattica piuttosto kamikaze, nel senso che iniziò a correre come un disperato fin dal primo giro, sostanzialmente lasciando indietro tutto il gruppo, meno quelli che erano, diciamo, i più allenati, che comunque negli ultimi, diciamo, nel rush finale lo superarono. Lui arrivò quarto, non riuscì neanche a salire sul podio, sostanzialmente funzionò un po' da quello che oggi è chiamata la lepre, cioè quello che si mette davanti, a un certo punto si leva e fa andare avanti quelli bravi che vincono. Prefontaine però rivendicava fortemente questo stile di corsa, vi volevo leggere alcune citazioni che hanno fatto la storia hanno creato il personaggio e sono rimaste nella storia e vengono citate da tutti gli appassionati di corsa. In particolare la più famosa, ora la devo ricercare, eccola qua: molte persone corrono una gara per vedere chi è il più veloce, io corro per vedere chi ha più fegato, chi è in grado di avere il ritmo più estenuante e dopo, alla fine, spingersi ancora oltre. Questa cosa di spingersi ancora oltre è ben presente nella retorica prefontaniana, vogliamo vogliamo coniare questo termine. Lui dice ancora: dare meno del massimo significa sacrificare un dono fatto da chi non si sa, comunque un dono. E poi dice ancora in maniera un po' bellicosa, belligerante: qualcuno potrà battermi, ma dovrà sanguinare per riuscirci. E infine, questa veramente questa perla: il miglior ritmo è un ritmo da suicidio, e oggi sembra un buon giorno per morire. E con questa marea di cazzate, sostanzialmente chiudiamo questo piccolo excursus nel pensiero prefontaniano. Ora avete intuito forse dal mio commento che non sono un fan. Ecco, diciamo, non apprezzo molto questo stile, questo modo di porsi, questa autoesaltazione, questa continua ricerca del limite. Mi sembra che faccia molto parte della retorica della nostra società, in cui sostanzialmente personaggi pessimi, tipo Steve Jobs, con le sue frasi da baci perugina, o comunque personaggi che incensano questo stile di vita in cui tu devi tendere a realizzarti come se la tua esperienza esistenziale fosse scollata da tutto il resto della società, e la realizzazione dell'individuo fosse qualcosa che l'individuo persegue da solo, dove attorno a sé c'è soltanto avversari o comunque trampolini o altre persone da utilizzare comunque per superare i propri limiti. E tutta questa cosa a me mi lascia veramente perplesso, mi lascia onestamente perplesso, essenzialmente perché se andiamo poi a analizzare i risultati di questo sistema sociale si vedono bene andando a vedere quello che ha fatto l'allenatore di Prefontaine, che è un personaggio abbastanza topico, secondo me, nel senso che è uno dei cofondatori della Nike. Esistono ben due film dedicati a Prefontaine, che escono uno nel 97 e uno nel 98. Il secondo in particolare è più che altro dedicato alla figura dell'allenatore, di Bill Bowerman, che era l'allenatore di Prefontaine, che passa come una specie di guru, di profeta della corsa, che tenta di educare questo giovane ribelle. Questo Prefontaine. Il film di cui sto parlando, appunto Without Limits, è una produzione di Tom Cruise, figurarsi, cioè lo stesso imbecille di Scientology. Lui sì, che è uno di quei personaggi che veramente incarna un po' questa cosa dell'autoesaltazione, no? Della costruzione di sé, del successo anche come misura di quanto sei figo, no? Di quanto sei riuscito a realizzarti. E comunque in questo film appunto si parla a lungo di Bill Bowerman. Bill Bowerman insieme a Phil Knight nel 64 fonda la Nike. La Nike fa sua, ve lo si vede bene nelle pubblicità, nei brand che tenta di lanciare per lanciare i propri prodotti. Si vede bene che introietta questo spirito del no limits, just do it, superare i propri limiti, adesso non ce la fai, ma se ti impegni ce la fai, comunque potrai diventare un campione, poi comunque devi dare sempre meglio e tutte queste cose qua. È interessante che poi questo nella pratica, questa ricerca appunto del successo, si traduce nel fatto che la Nike, come ben tutti sappiamo, faceva lavorare, e probabilmente lo fa ancora, oltreoceano bambini di 5 anni, gli fa cucire i palloni e i vestiti, li impiega per dei turni di lavoro proprio da bambini, no? Cioè 14-16 ore al giorno. In pessime condizioni lavorative. Nel 2007 si è anche svolto un grosso sciopero in Vietnam proprio contro questa multinazionale, dove hanno partecipato più di 20.000 persone, e in cui gli operai timidamente provavano a dire che loro guadagnano meno del valore di un paio di scarpe in America. E In tutto questo il signor Philip Knight ha effettivamente detto sì, siamo un pochino conniventi con i governi di quella parte dell'Asia per poter sfruttare meglio che riusciamo il lavoro a basso costo che ci offre quella zona del mondo. Però comunque perché noi vogliamo superare i nostri limiti e in questo superare i nostri limiti, essere uomini di successo, chiaramente per forza di cose dobbiamo schiacciare almeno qualche parte di umanità, no? Per forza, se no come si fa a superare il limite? E sempre sulla vicenda della Nike, sempre una vicenda legata a un lancio di un particolare tipo di scarpe che la Nike aveva fatto, mi sembra un annetto fa, vorrei imbastire un altro pezzettino di racconto che questa volta ci porta lontani dalla corsa, ma ci riporta nel mondo del calcio, però lo vorrei fare dopo un pezzetto, così vi do un attimo tregua. Il pezzo non l'ho ancora scelto, lo scoprirete quando faccio clic sul tastino apposito. Io chiedevo l'improbabile, l'incredibile, l'innovativo. Fare qualcosa che nessuno mai sarebbe stato capace di realizzare. Andare così lontano da diventare irraggiungibile. Essere lo scopritore di una nuova era o, chissà, di un nuovo tempo. In verità, quello che volevo davvero era realizzare i miei sogni. E così, come in un gioco di bambini, conquistare tutto quello che mi sembrava improbabile. A parlare della Nike, questa volta di una vicenda che risale a qualche anno fa. La Nike non è nuova a delle gaffe, diciamo, a scelta di alla, diciamo, a scelte sbagliate nelle loro molteplici strategie di marketing. Cioè, in generale la campagna, quelle Just Do It così funzionano bene, poi qualche volta c'ha delle cadute di stile da cui tenta velocemente di uscirne. L'ultima in particolare è stata quella di aver scelto come frontman Pacquiao, un pugile filippino, e aver dovuto rimangiarsi tutto sostanzialmente quando lui, nel suo delirio di onnipotenza, Pasquale è infatti un bravissimo pugile, ma è un emerito stronzo probabilmente, e ha tentato, dopo la sua carriera pugilistica, pare voglia tentare anche una carriera politica. In particolare si situa tra gli ultracattolici tradizionalisti di non so quale partito filippino, non ne ho idea. Comunque, recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni omofobe e la Nike, su pressione dell'opinione pubblica, ha scisso, diciamo, questa partnership. Ecco, la Nike non è nuova a queste cose. Nel 2012, in particolare, lancia un modello di scarpa chiamata Black & Tan, e pare, senza sapere, ma io non ci credo manco morto, che Black & Tan erano in realtà un gruppo paramilitare che faceva capo diciamo, alle truppe, agli ausiliari delle truppe britanniche durante l'occupazione dell'isola dell'Irlanda da parte della Gran Bretagna, E in particolare questo gruppo di paramilitari che continuerà ad esistere a lungo, soprattutto agli inizi cioè continuerà a operare per diversi anni, soprattutto diciamo dall'inizio del Novecento, intorno viene fondata, mi sembra, nel 1900. Intorno al 1920, in occasione dell'insurrezione in Irlanda, e si macchierà, diciamo, di tutta una serie di pratiche controinsurrezionali, molto, molto efferate, e quindi la Nike, diciamo che nella scelta di questo nome ha fatto un pochino una gaffe. Gli irlandesi se la sono giustamente presa, e la Nike ha ritirato il paio di scarpe chiedendo scusa, dicendo non lo sapevamo. E questo è quanto. Però tutto questo mi ha riportato alla mente che proprio ieri, io non sono potuto andare perché ero impegnato in un'altra serata, però al Camillo Sinfuego presentavano un libro che si intitola Bomber Renegade, che è sostanzialmente la storia di Michael Dixie Dixon, cioè uno degli ultimi, forse l'ultimo addirittura, l'ultimo prigioniero dell'IRA a essere liberato, e che ha una storia abbastanza particolare. Perché lui sostanzialmente è un inglese che si appassiona, si trasferisce a Glasgow e si appassiona alla tifoseria del Celtic. All'interno, diciamo, di questi ambiti entra in contatto con diciamo, la parte ribelle dell'Irlanda. Le sue vicende di vita lo portano poi ad arruolarsi nell'IRA. Nell'ultima ira, cioè quando la tregua era ormai prossima, viene arrestato per aver partecipato a un attentato in Germania. Rimane, no, scusate, rimane latitante, viene arrestato poi dopo qualche anno, viene arrestato a Praga nel 2002, sconta quello che deve scontare, viene liberato nel 2006. Ed ecco, ha scritto un libro che si intitola Bomber Renegade. Era in giro lui proprio in quanto tale a presentarlo, e in particolare appunto ieri era a campo. Il libro esce per le edizioni Le Emilie, e quindi vi do anche un consiglio per le letture se vi interessa. Ora ci ascoltiamo qualche pezzo, visto che nella pagina sul sito di Meglio Edizioni viene anche consigliata una colonna sonora da associare alla lettura del libro, e quindi nulla, io ho scelto qualche pezzo segnalato qua e ora ce lo andiamo ad ascoltare. Hush and listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, get you ready quick and soon, for the pikes must be together at the rising of the moon, at the rising of the moon, at the rising of the moon, for the pikes must be together at the rising of the moon. And come tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be, at the old spot by the river, quite well known to you and to me. One more word for signal token, whistle out the marching tune, with your pike upon your shoulder, at the rising of the moon, at the rising of the moon, at the rising of the moon, with your pike upon your shoulder, at the rising of the moon. Out from many a broad walled cabin, eyes were watching through the night. Many a manly heart was beating for the blessed morning light. Murmurs rang along the valley to the banshee's lonely croon, and a thousand pikes were flashing by the rising of the moon, by the rising of the moon, by the rising of the moon. And a thousand lights were flashing by the rising of the moon. All along that singing river, that black mass of men was seen. High above their shining weapons flew their own beloved green. Death to every foe and traitor, whistle out the marching tune. And hurrah, me boys, for freedom, 'tis the rising of the moon. Tis the rising of the moon, tis the rising of the moon. And hurrah, me boys, for freedom, 'tis the rising of the moon. E ora, anche in assenza della Gine, che era in realtà la principale redattrice e creatrice della rubrica Playlist for Runners, ho deciso comunque che prendo io in mano la cosa e vi faccio ascoltare un paio di pezzi adatti a correre sotto la pioggia, e in particolare volevo porre la vostra attenzione sul dilemma se sia meglio correre o camminare sotto la pioggia, cioè ci si piglia più acqua se quando piove si corre oppure se si cammina. Ora, la risposta potrebbe apparire ovvia, ma ci sono delle motivazioni fisiche che io ora vi spiegherò, scientifiche, che si possono, usare per sostenere l'una piuttosto che l'altra dell'opzione. Ma ora, grossissima novità, prima di iniziare, mesi fa, in realtà un mesetto fa, avevo prodotto anche una sigla per questa rubrica che poi non abbiamo più fatto, e quindi ora, come prima cosa, sigla. Dove corri sventurato, quella in terra più non è. Che vi consiglio per iniziare la corsa, siete sotto la pioggia, quindi non andate troppo veloci, anche se effettivamente per dare una risposta al quesito che ho lanciato poc'anzi, cioè se sia meglio se si prenda più pioggia camminando o correndo, ecco, la risposta è che a parità, diciamo, di permanenza sotto la pioggia, camminare o correre è la stessa cosa. Penso che la pioggia che ci cade in testa quando camminiamo è uguale alla pioggia che ci cade in testa quando corriamo. Il problema è che è a parità di permanenza sotto la pioggia. Quindi se io devo fare 100 metri camminando ci metto tot tempo, se devo fare 100 metri correndo ce ne metto di meno, e quindi se corro tendenzialmente mi piglio meno pioggia perché arrivo prima. Nel senso che nella nostra, diciamo, formuletta, il delta T, cioè il mio tempo di permanenza, deve essere uguale. Nel momento in cui il tempo diventa diverso e quindi più corto, io prendo meno pioggia. Però il problema non è legato a se corro o se cammino, il problema è legato a quanto tempo ci sto sotto. E di conseguenza, sì, tendenzialmente è meglio correre, quindi correte sotto la pioggia, e per questo io vi do anche la apposita playlist. Il primo pezzo che vi volevo proporre è un pezzo di BJ Thomas, si intitola appunto Raindrop Keep Falling on My Head, ed è un pezzo che senz'altro ricorderete, perché fa parte della colonna sonora del film Butch Cassidy and the Sundance Kid, che è un film un po' vecchiotto, del 1969, ma molto bello, con Paul Newman e Robert Redford. Racconta appunto la storia di due fuorilegge rapinatori che facevano parte di questa banda di rapinatori chiamata Mucchio Selvaggio, e sono costretti a rifugiarsi in Bolivia per fuggire dalle grinfie della giustizia statunitense. In Bolivia in realtà finiscono, dopo una serie di vicissitudini, barricati dentro un casolare abbandonato e accerchiati dall'esercito l'esercito boliviano, dalla gendarmeria boliviana, e quando ormai si rendono conto che non c'è più nulla da fare, si lanciano fuori in questa scena finale del film, in questa sparatoria disperata contro l'esercito boliviano, con l'obiettivo comunque di non arrendersi. E il pezzo appunto che vi faccio ascoltare è tratto da questa colonna sonora, mi sembra in particolare nella scena in cui loro vanno in bicicletta, non mi ricordo più bene perché, comunque è molto adatto a correre sotto la pioggia, perché appunto si parla di gocce che te cascano in testa, che è effettivamente quello che succede quando piove. Raindrops are falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Pezzo di questa playlist for runners, visto che abbiamo iniziato piano ma ora siamo caldi e andiamo un pochino più veloci, avevo pensato a un grandissimo pezzone di disco music. Ora a me piace la disco music, a voi non piacerà, ma chi se ne frega, la playlist la faccio io. E si tratta delle Eruption, o degli Eruption. La cantante era una donna, gli altri effettivamente erano tutti maschi, però a noi ci piace usare il femminile, quindi chiameremo delle Eruption, che hanno fatto un pezzo apposta proprio dedicato alla pioggia, che si titola I can't stand the rain, cioè non sopporto la pioggia. Il testo dice una cosa tipo: non sopporto la pioggia che sbatte contro la finestra, non sopporto la pioggia perché mi ricorda delle belle cose, non sopporto la pioggia, cioè mi rimanda dei bei ricordi, dei ricordi dolci. Non sopporto la pioggia perché lui non è qui con me adesso. Ora, secondo me, che vi frega dell'amore, cioè voi andate a correre. E ascoltando questa canzone e siete contenti uguale, non è il caso di prendersi male per queste quisquiglie amorose, He's not here with me. Hey, window pane, do you remember how sweet it used to be? Con cui chiudiamo questa playlist, siete ormai in rientro a casa, l'ho scelto apposta perché in realtà c'è il rumore della pioggia all'inizio, che si sente un po' meglio di I Can't Stand the Rain, che ce l'aveva pure anche, ma era un po' mascherato. Questo invece si sente proprio bene che piova all'inizio. Si tratta dei Colle del Fomento, il titolo del pezzo è Pioggia sempre, era un accostamento facile. E con questa pioggia sempre vi saluto e ci sentiamo la prossima domenica. Cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fritta.